di te come segnale, ti volevo ordinare. Stavo dicendo, no, poi Giuseppe ha una timbrica di voce abbastanza chiara, bella, squillante, molto ma molto chiara da ascoltare. È un po' come me che abbiamo più alti che bassi nella gola, e allora è squillante per quel motivo lì, capito? Sì Giuseppe, io ti sento molto ma molto bene, davanti Giuseppe. Positivo Giulio, qui da parte mia la tua ricezione è tutto ok, sia di radio, segnalone alla grande e così anche Popolino sta cominciando a farsi sentire forte. Gaffa, gaffa, oh Giuseppe, qua stai già quasi arrivando a fondo scala, dove sei? In questo momento sono vicino al Rio Caparu. Un bel forte sei qua, un bel forte. Tra poco ce lo superi anche a Giulio, lo superi già. E le antenne sto arrivando. Ma gaffa, e beh, sei quasi vicino a me sei. Logicamente mi arrivi forte per quello. Sì, beh certo, in effetti così, se sta avvicinando a te è chiaro, sempre più segnale, ce dovrebbe avere per forza. Sì, no, ma comunque anche qua, in linea d'aria, evidentemente è molto, molto indicativo la sua trasmissione, perché arriva qui lo stesso, sta arrivando più forte di te di segnale, perciò evidentemente con la Bundi Bundi siamo in una posizione abbastanza buona fra me e lui, capito? Va bene così, avanti Giuseppe. Eccomi qua, adesso mi sto avvicinando sempre più al Popolino, adesso ho superato Graziella. Prego su canale 10. Avanti il break, avanti che se ne varia, sei a fondo scala adesso. Sì, buongiorno a tutti quanti, canale 10, da questa parte che vi super saluta, buongiorno dal Leoncino, cambio. Sì. Buonasera, se tu l'hai sentito. Avanti Giulio. Ok, ciao Leucci. Con chi sì, con quello scapestrato sì a fianco? O in macchina diversa siete? Sotto. Giuseppe. Un attimo a te che Giulio ha rialzato Leoncino, un attimo. Ma Leoncino in questo momento ha le orecchie sporche, non mi sente. Leucci. Dove devi girare? Leoncino, stai arrivando. Cambia zona. Avanti a tu. Via, scappa. Sono a forse femminile. C'è propagazione a tu, c'è propagazione. Guardati lo smitter adesso. Mamma mia, vedi come sto. Cosa mi dispiace? Sotto di qua stai passando. Oh, sono dall'altra parte, Antonio. No, ma non ce n'è più smitter qua, c'è fondo scala proprio, c'è a manettone. Positivo e K di Roggero vuol dire che tutto sta fischiando per il verso giusto, Antonio. Avanti la parte, dai. A che te lo faccio girare quel barracco. Su che dobbiamo rullare ragazzi, vai Giulio, riprenditi il mic. Ok Giuseppe, ti stai passando a spalle di Antonio, è chiaro che gli fai girare due volte lo smitter. Tu mantieni lo smitter, non si sa mai. Però la cosa è viceversa, anche tu Giuseppe devi mantenere lo smitter, perché sennò Antonio lo fa girare anche a te. Qui qualcuno si è fatto male, carabinieri, ambulanze. Tu, quella è l'ambulanza che ho sentito poc'anzi, che era vicino a casa tua allora. E capo, sicuramente. Ma sai cosa mi dispiace Giulio, che lui non ce l'ha. Giulio. Avanti, devo. Sì, come mi senti qua? cambio. Con le orecchie, Giuseppe, molto QSB, però ti sento, sei arrivato anche a 9 e sei sceso dopo a 3 di colpo, così. Va bene, dai, già ti sto sentendo. Avanti Giuseppe. Su tappa. Salutoni anche a Giuseppe Tornado, cambio. K di Roggero, buonasera, avanti, buonasera, buongiorno, che siamo appena alle 11.30 di stamattina, buongiorno Leoncino e ben sentito. K, io sono qua, direttore via Levante, cambio. Anche Antonio, mi arriva bomboletta qua, cambio, prendo, compro e scambio, avanti e fai bombolino, cambio. K, ciao Leoncino. Volevo chiedere a Giuseppe, a Calpe se è successo? Angolo via Montello, via Pascoli, angolo via Montello. Ci sono le ambulanze con la Croce Rossa accompagnate da pattuglie di carabinieri. Un casino è successo? Sicuramente sì, dai, qualcuno forse si è fatto la bua e niente, e ci vogliono anche loro. A semaforo di via Montello, con via di Sicilia, lì è Giuseppe, qualche moto scommetto, qualche motorino, non so, qualcosa del genere, a semaforo? Ma non credo, Giulio, non credo perché vedo che c'è un camion lo portellone di dietro aperto, gente che sta mettendo dei panni in terra forse per asciugare del sangue. Ho capito, speriamo che non sia niente di grave, perché bisogna rispettare le regole della circolazione stradale, ma vabbè, a volte è anche inevitabile, per distrazione naturalmente, questo sempre, perché se si dovesse rispettare proprio al 100% le regole della circolazione stradale non succederebbe mai niente. Purtroppo ci sono i distratti e soprattutto i prepotenti alla guida dei mezzi, e allora ecco che succede quello che succede. Vabbè, avanti Leone. Ciro. È sparito tu. Ma l'uomo ce l'ha mangiato. Che cannibale si è mangiato un leone. Cioè, ti hanno mangiato un leoncino, i cannibali. Ma l'hanno già fatto fuori, già passato, ossa e tutto. Se hanno mangiato i cannibali. Nella foresta c'erano lì, nella savana c'erano i cannibali e si hanno mangiato il leoncino. Giù, allora sai come dice quella canzone? No, si è addormentato e paura più non fa. Non so, ma allora adesso in questo momento sta sognando alla grande. Lo stanno digerendo i cannibali. Adesso andiamo a vedere chi sta in carrampa e quello che è successo. Vediamo un po' questo incidente e vediamo di cosa si tratta. Ok. Ma tu hai il garage in quei cipressi lì, Giuseppe? Positivo, in via Nurra. Ah, in via Nurra, ho capito, sono vicino alla mia bottega. E dove è via Nurra? La testa del vino? Positivo, giù. E a fianco a quello che ripara gli elettrodomestici. Ho capito, la signor Solina sarà in quei posti macchina, sì, già lo so, ho capito. Ma è tuo personale che te l'hai comprato, perché lui li vendeva anche tempo fa. Infatti mi aveva portato anche un cartello, un affisso per mettere nella vetrina, che gliel'avevo messo per un po' di tempo, e che vendeva i garage, i posti macchina là c'erano. E dunque è quello. Positivo, ma io non sono nei suoi, eh. I io ne ho preso un altro, ce l'ho in affitto perché questo non lo vende ancora, però quelli che il tipo vuole vendere vuole troppo, cioè fuori prezzo. Sì, infatti ve l'avevo detto io, guarda che lui sta chiedendo, secondo il mio modo di vedere le cose, sta chiedendo anche troppo, anche perché non è, diciamo, come ingresso non è molto, ma molto comodo, sì, si entra lo stesso, più delle volte ci sono altre macchine davanti, ma quello è un altro discorso, perché basta una telefonata per farli spostare, eccetera, eccetera, al limite, no? Però come ingresso non è un grande ingresso come il box. Infatti, e poi soprattutto quello interno, l'ingresso interno, lì si spacchi la macchina ed è anche per quello che non l'ho preso. Sì, infatti, e poi una macchina grossa lì la manovra non è molto, molto facile da fare, già si fa, d'accordo, quello che vuoi, però con tantissima attenzione perché giustamente lo spazio non è molto sufficiente. Va bene, ho capito, a tu. Chiappa, forse non ha compreso la niente. Ma vado come una baciare in Brescia che non vedo di nada. Di non fare le struttine, un tempo ce lo devo pure fare. Perché allora, bene o male, c'era qualcosa. Ah va, pure la casa, non la puoi più vendere come te vuoi tu. Perché la gente non c'è soldi, se non te ne compra e basta, è finita lì. Ci sono case ancora che non riescono a venderle perché proprio non c'è lavoro, non c'è niente. Allora sai qual è la politica degli impresari o Antu? È che sono struttini, io la vedo in questo modo perché io ho una esperienza diretta con questa gente per il semplice fatto del lavoro che faccio, eccetera, perché quando vanno da un altro artigiano o da un altro imprenditore per farsi fare lavori, te ne tirano l'ultima goccia del sangue, ti tirano al massimo il prezzo, no? E poi oltretutto alla fine quando consegni te ne bruciano sempre, non mai di un 5-10% te lo bruciano sempre, oltre al fatto che ti hanno succhiato l'ultima goccia del sangue. Però quando vai da loro a comprare sono degli struttini, nel vero senso della parola. Purtroppo gli impresari sono così, capito tu? È una loro teoria, non è giusto chiaramente, però cosa vuoi fare? La mentalità dell'impresario è quella. Dai Giuseppe. E giù, dai, riprendo, io sono arrivato qui nella tana del lupo, adesso mettiamo dentro l'ABM e se coincide riprendo la casa. Ciao Giulio, ciao Popolino e ciao agli eventuali ascoltoni sul canale 10. QRX è per me. Ok, ciao Giuseppe, alle prossime, dai, ci sentiamo. La giornata ancora già è lunga e probabilmente ci sentiamo lungo la serata, non lo so. Vai a tu. Ma ciao Giuseppe, ce la risentiamo, dai, alle prossime, cappa, hai ragione Giulio, hai completamente ragione, sai perché succede questo? Perché cazzo tutti dobbiamo lavorare, è così che tocca a farglielo, tocca a questi stronzi qua, se tutti invece, perché se non glielo fai tu glielo fa un altro, se vuoi travagliare. Invece quando arrivi in TV, no, tolto, non ti piace, figli andatini. Sì, ma la loro religione è quella, capito Antu? E purtroppo questa gente qua lavora in maniera assurda, lavora. Ad esempio, poi col passare degli anni, no, prima che servivamo noi a Sassari come infissi, come salvamenti, eccetera, questa gente, poi hanno conosciuto i prezzi del continente che arrivavano, però c'è anche questo da dire, se per caso loro vendono un appartamento, no, e io compratore vado da loro a comprare l'appartamento, loro dicono no, queste porte non mi vanno, perché sono, o queste finestre non mi vanno, perché sono di quelle ordinarie, sono di quelle proprio a basso livello. Allora, vabbè, noi non c'è problema, dice, li cambiamo, li mettiamo come vuoi, così e così. E vabbè, te li ultima e te li piazza indubbiamente. E beh, sai cosa fanno? Ti aumentano il prezzo dell'appartamento, o meglio, ti fanno pagare le porte nuove e anche le porte vecchie che loro hanno già montate. Non è che li tolgono, li utilizzano per altre costruzioni, poi no. No, ti fanno pagare sia l'uno che l'altro, con un sovrapprezzo anche. È successo tante volte e succede sempre così. Ripeto, sono degli strozzini. No, è per vogliamo noi ce lo vogliamo, Giulio, cioè non tu magari che cioè, ti inducono a fargli quel prezzo perché vuoi lavorare, hai capito? Un attimino che mi ha chiamato mia madre, mi aspetto un attimino? Sì, ti aspetto un paio di minuti e poi però scendo giù a fare colazione, ma che faccio un l'angolino. Va bene, avanti, ti aspetto. Break. Avanti. Buongiorno, lo chiudo. Lo so. Come mai ti sei svegliato così tardi oggi? No, non mi sono svegliato tardi, ero in giro in moto e poi ho visto che il tempo stava cambiando e giù. L'ho parcheggiata, la moto ho preso la macchina. Allora, devo timi il tempo quando cambia. Già, beh, è da così, nella solita zona. No, sono all'agraria, dai. Sono alla città mercato a fare delle commissioni. Ho capito, all'agraria, ho capito. No, perché lì in via Montebello c'è un incidente, qualche macchina, qualcuno si è fatto male perché c'era l'ambulanza in via Montebello con via Pascoli. Io non sono passato, mi sono sceso giù dalla rotatoria della Feroce, sono sceso qua in via Solano. Io ho capito, poi si è preso la strada nuova, sì, ho capito, no, me l'ha detto Giuseppe perché ci ha appena passato, cioè, e dunque ha visto tutto lui. Allora, speriamo non ci siano fatti male, là. Allora, dico la verità, non è che temo il tempo, temo di vedere sporcare la moto perché l'ho portata a lavare stamattina, visto il sole, me l'ha sentita bella lavata, passata la cera, eccetera, eccetera, e non vorrei che magari piove, me ne metti 12 lunghi, e allora l'ho portata a casa. E sono uscito in macchina, intanto devo fare delle commissioni, adesso a città mercato, poi devo andare là al solito appuntamento e poi me ne ritorno a casa. Ho capito già, ma la moto tu dove la parcheggi? Nello stesso posto macchina che hai, all'aperto? Beh, suppongo allora che la copri con qualche tendone, se è così, perché se mi stai dicendo che hai paura di sporcarla perché è lavata, evidentemente o è al riparo oppure hai qualche tendone, qualcosa del genere per coprirla. Allora, io il garage ce l'ho, ma è troppo lontano da casa, c'è la via Fiumicetta, quindi no. Non mi conviene portarla lì, la lascio nel posto macchina, la vedete tu, la metto di sbieco e la copro con un telone lungo fino alle ruote. Ho capito, sì, lo so, il garage, ti ricordi che avevamo portato così una lavatrice una volta o qualcosa del genere, già me lo ricordo, ho capito di quale garage stai parlando. Certo, ce l'hai anche portata in mano, dunque sarebbe troppo distante se no. Fai stato un po' vicino la prima messa in garage, ma di un giorno ce la posso mettere, se lo vuoi un mandrone, di un giorno la posso mettere, tanto quel garage lì è rimasto a noi e quindi posso usufruire come voglio perché vuoto. Sì, ho capito. Certo, d'altronde, se ti è toccato vuol dire, se te l'hanno dato vuol dire che ti è toccato, di questo non si discute. E fa una cosa già, mettici le ruote a quel garage, te lo trascini verso casa tua. E almeno potessi farlo, ma non è grandissimo, la macchina ci sta tranquillamente, la volta la macchina ci sta tranquillamente. Ha avuto una fortuna uno vicino a casa che l'ha trovato dal palazzo a fianco, l'ha comprato, l'ha pagato un pacco di soldi, però l'ha comprato e c'era due passi, capito? Si fa una passeggiatina a piedi, arriva dal palazzo rosso, attraversa la strada e c'è il garage. È stato molto fortunato, io non sapevo nulla, se no magari un pensiero ce l'avrei fatto anche a prenderlo. Così è una grande comodità, infatti ci vuole fortuna trovarlo proprio nei paraggi della propria abitazione, in effetti è così, e vabbè comunque, non ti pettire niente, fregate, poi se che un giorno ti capiti l'occasione anche a te, se no oggi andrà bene, il posto macchina tua oggi è tranquillo, non ce ne sono problemi, poi avrà tutte le cose, tutte le precauzioni necessarie nella moto, no? Catene contro catene, in modo che può possa rimanere tranquillamente così nel tuo posto macchina, capito? La volta mia c'è il blocco con la macchina, capito? C'è il blocco motore. Se tu non inserisci la chiave giusta, a parte che per inserire la chiave ti trovi una frase, perché c'è praticamente una linguetta di ferro che la giri con il contrario della chiave, c'è una specie di chiave esagonale, si gira questa linguetta di ferro e blocca e tappa la serratura, quindi prima di arrivare alla serratura bisogna cercare di aprire quello, che non è facile. Oh Giulio! Arturo, dimmi. Cazzo diavolo, non posso mai più modulare questa stanza. Che cosa è successo? Sto bussando il muro, mi... Aspetta, cosa c'ho, mi fra poco, senti. Apro un manetta, lo pongo. Adesso lo lasciano scaldare per pompare forte. Cazzo, si può tremare da mettere un pavimento da pure. Adesso te lo vedo tanto. Come si deve dire in questa stanza? Perché ti sentono nell'altra camera, come parli, oppure disturbi fai tu vuoi. Sta buono, un macchino che porta in campo. Aspetta che fra poco comincia a pompare con l'impianto. Che se dico che ti trema lentamente lo barato fra poco. Calda tu, sto facendo scalare per pompare di brutto, cazzo. La vera è un trabalo, un qua di un muro e il pisci dentro è la gamba. Quello trabalo, ma è un buco e il pisci dentro. Fare un raggio se fai, che chi pisci non guardo, grazie. E secondo me mi devi bussare un muro. E buco. Tu ti troverai vicino, chi sono malato a tu. Hai detto che fra poco cominceremo a pompare il brutto. Bubu, quando si vive in condominio è sempre un problema, Non so, vabbè. Avanti già. Ragazzi, io sono arrivato, ti saluto, ti auguro una buona domenica e niente, saluto anche il gruppo da Sculpone. Ciao, io sono arrivato, vado a fare queste compere veloci e poi faccio il resto. Ciao, ci sentiamo dopo se ci siete. Ok, ciao già, buone compere. Alle prossime ci sentiamo, ciao già, magari in salata, non lo so. Ok, avanti a tu. Gaffa. Allora, dove lo vedo tanto? Giulia. Giulia, che gente macca, cazzo. Ma te lo sai, cazzo? Cioè, dove ti conosci tu? Non so quanto, Da poco sì. Chi si penso io, sono il lato balazzo a fianco. O di traverso, o entro voi, ma non... Da poco sì, non lo so. Non lo so, a meno che non è quello dell'antenna tu. Sei in mezzo macchie. Andiamo fra poco ripongo qui. Se si piace sta roba. Sì. Di una musica di molto buona di attore. Così è una cosa allegra. Io dico che vibra pensamente lo pavimento, da poi quando comincia già a tirare. Vabbè, la gelosia è a tua, cosa vuoi fare? E forza cazzo, non le vuole nessuno a rubare a chi non cazzo, che si sia bagasso a tutte. Cosa vuoi fare? D'altronde l'ubico è un beh, d'altronde cosa vuoi fare? Se uno la troppo a quando ci indiri tutto da capo, così passa tempo qualcuno già mai compreso cazzo. Oioia, per carità, mi amo fra un po' come stato gran triste, ma lo seguo. A vedere cosa dite. la verità non mi attrae troppo. Sì, così magari posso capire, informarmi di chi ha vinto, però non ha seguito proprio, no? So che è bello, è un bello sport. Mi piace la moto sì, quella sì, solo che sono diffuso di Valentino Rossi, ma chi sanno, già dall'arrabbattato niente da fare, non c'è rimedio, o è finito lui o è finita la Ducati, non lo so. Arrabbiato gioco per questa cosa, la cosa che la Ducati si danno comparata alle tedesche. Sì, quello l'ho letto, ma speriamo che sia la volta buona. Tanto il burro si sta comprando dai tedeschi, è sempre un nome italiano, e allora se fate comodo, ti date in una mano, in poche parole. No, certo, una piata fa un burro, altro che mano, Cazzo di albo, l'Italia quello che si dovrebbe avere, cioè, la moto che già abbiamo, cazzo se non ha. Ma vaffa, c'è da compare già niente. Prego. Anzi. Datemi un controllo di radio, che sono qui a casa. Vedi un po' se ci arrivo lì da tempo. Ma tu stava arrivino qui. Ah, ci arrivo. Sì, adesso è bello forte già. 59 più 25 qua, Giuseppe, 59 più 25. Oh, quindi arrivo anche da Giulio, e questo è già un dato che mi consola, dai, già va bene, allora mi sentite. Te lo sto dicendo, 59 più 25, il che significa, tradotto in parole CB, 5 radio e 9 più 25 di segnale. Te l'ho detto in gergo radioamatoriale, l'avrei capito, avanti. K di Roger, già va bene, l'importante è sentirsi. Ok, suppongo che i nostri segnali si equivalgono, più o meno, saranno all'incirca la stessa cosa per me. Sì, diciamo che qui sei 9 più 20, radio super 5. Ok, sì, va più che bene, va bene. Vabbè, io gli ho tirato fuori un altro apparecchietto, ma che adesso l'ho rimesso da una parte, stavo parlando delle 789 della Sommerkamp, un ultimo apparecchio, anzi superiore a questo sicuramente, di qualche punto, non molto, ma di qualche punto. Nelle prestazioni sicuramente migliore, non ci sono dubbi. Intanto perché è un Sommerkamp, anche se questo che sto usando adesso è un Galaxy, sì, le caratteristiche all'incirca sono le stesse, però quell'altro ha qualcosina in più. E va, fa da 25, mi sembra, sino a 30, una cosa del genere, e anche oltre. Poi c'è un sistema di commutazione che va anche oltre, 32 dovrebbe arrivare, una cosa del genere, sì che è superiore. Ma mi tengo sempre questo, il Galaxy 2 o Galaxy secondo, come si vuol dire, perché c'è un numero romano, no? Galaxy c'è scritto e poi un 2 è scritto in romano, praticamente il numero romano, sì che io lo chiamo Galaxy 2 o Galaxy secondo, perché è così. Va bene, anche questo con frequenzimetro e poi il numero di canale. Solo che le bande, anziché essere come quella là, questi ne ha di meno, questo ha 200 canali, perché ha 5 bande, più i canali alfa, sono canali alfa da poter ottenere tramite il clarifier, capito? Insomma, un ultimo apparecchio ugualmente, non ci sono dubbi. Sono contento e mi piace molto, praticamente è un punto, una specie di punto questo. Vabbè, avanti a tu. Giulietto, come ti chiamo? Sì, ti stavo chiamando io, ma ti ha affacciato Natalino. Avanti Natalino. Con chi che sto parlando giù? Sto parlando con Bombolo e con Giuseppe Tornado. Avanti Tornado per il Natalino. Natalino, abisci. ti sento, ciao Giulio, buongiorno, vabbè, mi hai sentito, ti sento benissimo a te. KK, ciao Natali, buona domenica anche a te, QRA, mannaggia. E siamo io, Giulio e Antonio, Antonio Popolito, che ti rilancio subito, sei ancora in ascolto. KK, ciao Natali, a me intende. Basso, basso, ma già ti sento Antonio, ben sentito. Dovete scusarmi, ma la colpa è mia, perché sto uscendo con un pezzo di filo, sono chiuso dentro un vicolo praticamente. Purtroppo le condizioni sono queste, dai. Scappa, non ti preoccupare, Natali, già ti sento lo stesso. Ehi, avanti giù. Ok, Natali. Dai, vi lascio che sto mangiando. Ci sentiamo prossimamente. Ciao Natalino, ciao Giuseppe, ciao Bombolo. Alle prossime. Sto mangiando. Adesso la bocca piena e non posso parlare, dai. Ci sentiamo alle prossime. Riprendi tu e mi fai girare tu. Yeah, ciao. Sì, smetto di trasmettere, scendo giù che devo guardare una cosa al computer, devo cercare dei finali che mi interessano, sto cercando la sigla di un certo apparecchio, eventualmente ci sentiamo stasera. Riprendi, ciao a tutti, ciao, riprendi. Ciao Giulio, te la risentiamo. KK, avanti, Giuseppe. Ciao Giulio, ci sentiamo presto, dai, vai Natalia. Ciao Giulio, ben sentito, va. Buona domenica e buona correttiva alle prossime, va. Avanti Giulio. È positivo, 9 più 30 mi sei qua Natalia. Sì, ma se vedi come sto uscendo finisce per la risa Giulio, va. Il bambolino già lo sa, però sono veramente in condizioni pietose. E quando mai non riusciremo a metterci mano lì a fare, a metterci un tampone da qualche parte? Sto pensando cosa fare, perché bisogna vederlo prima com'è la situazione, Giuseppe, se no non si può pensare di fare qualcosa, perché proprio a salire sul tetto non ci posso salire, perché mi hanno chiuso l'accesso, la pizza. Va bene, d'accordo. Ma quando mai non riusciamo a mettere due staffe e fare un qualcosa di telescopico? Ma io direi a te anche una torre potrebbe andare bene, un qualcosa di telescopico in fibra, un qualcosa di leggero che tu puoi tirare su quando vuoi, come termini di cosa, di trasmettere e te lo riabbassi. Sì, ma viene male. Dovresti vederlo Giuseppe per poter dire qualcosa. È positivo, dai, un giorno ci organizziamo e vediamo un po' di magari più teste ci sono e più idee ne possono venire fuori Natali. Quello è vero. Perché, a parte che non è neanche dritta, dovresti magistrare bene la faccia, cioè metterla dritta. Perché ho messo una pezzetta di quelle per antenna parabolica, ma l'ho tagliata e l'ho allungata praticamente per spostarla dal muro, perché sennò sarebbe stata troppo vicina al muro. Vedi, è già un appoggio, una base, più ce l'abbiamo. Se noi riusciamo a procurare un qualcosa di telescopico e metterci un'antenna leggera sopra, ti ricordi quando avevo la Storm, io, Natali? L'antenna ce l'abbiamo già, è leggerissima, è una canna da pesca con un filo, capito? Io sto facendo con una mezz'onda praticamente, va. L'antenna ce l'abbiamo, si tratta di alzarla un po' almeno per renderla un po' più libera, perché sono proprio chiuso io dentro questo vicolo, anzi mi raccolo che sto uscendo, quando la vedi viene a fare la risa di quelli Giuseppe. Eia, ascolta bene, da quella pipetta a sopra, quanti metri saranno? non lo so, sono per due, 9 metri sono, guarda, non è. Cavolo, 9 metri sono però, se non sono 9 metri, se sono 7 metri, qualcosa recuperiamo sempre. Sì, vabbè, vediamo, bisogna vedere la situazione, va. Dai, bombolini, riprendi te, riprendi te. Cappa, io ho fatto un pallino, bisogna fare. Bisogna fare qualcosa. O dice che c'è un vicino lì che ti ha fatto installare quella della cosa. O glielo chiede a quello lì della televisione. O glielo chiede a quello lì se gentilmente si fa salire. E rimontiamo un'antenna che non sia molto complicata, tipo una ringa o qualcosa del genere. Isolata bene, o fare il lavoro che bisogna fare e via. Se ha la possibilità di sfruttare quel pezzo dove ha l'antenna della televisione, allora è fatta. Cappa. Cioè, io devo solo chiedere a quello là. E poi ci sale e si mette, fatta bene come deve essere messa. Come state guardando, lui è forte da lì. Se basta un'antenna così di bassa, allora non c'è bisogno di mettere grandi antenne. Positivo. Oh, ma quando risali su a San Francesco, Natalino, già rintendi rimatracchi, gli rendi torno. E quello sì, faccio osservare il QRM e Antonio non capisco quello che dice, va. Mannaggia, Antonio stava dicendo che se quello che ti ha fatto piantare l'antenna della televisione ti fa mettere un palettino per metterne una, anche piccola, hai fatto bingo. Quello sì, ma ci metta quella l'antenna, c'è fuori dal tetto l'antenna quella lì, vendo pure. Infatti, se poi anche roba leggera, Natalia. Si mette la benzina, è leggera. E allora va bene, allora Natalia, fatti. A quanto stai a ritornare là, se quello ti fa la cortesia, hai fatto un terno all'otto. Infatti, bisognerebbe chiedere se ne fa entrare e vedo un po'. Allora lì si dovrebbe mettere, so che non la vuole capire, non mi dà retta a me. Si dovrebbe mettere un arringo, fatta la modifica che bisogna farli per renderla che non entri acqua da nessuna parte e che sia più perfetta possibile, messo il grasso, fatta tutta bene, isolata bene, cosa? E messa sul tetto, lui da lì esce una bomba con quell'antenna. Solo che non mi vuole ascoltare, se ci riesce a mettersi d'accordo con quell'inquilino là, solo che non mi vuole dar retta. Stava dicendo, Anto, che l'antenna ce l'ha, anche quella che ha fatto lui, se riesce a metterla sul tetto, per il momento senza nessuna spesa e senza niente, e riesce a uscire anche abbastanza bene, hai capito? Una cosa, se ci vuole un'antenna... Ci vuole un'antenna che sia antenna, cioè non altro costruito, un'antenna che vada, che sia un po' valida, capito, che abbia validità. Antenne altro costruite sono sempre un po' così, insomma. Perlomeno io la penso così, la penso. Vabbè, ma qui sta arrivando una bomba, 9 più 30 è mia, Anto, con quell'antenna che si è fatto. Ah, io dico, ma se va, se riesce a metterci quella sul tetto, ben venga. Tanto poi se si deve trasferire, chi glielo fa fare a fare un sacco di travaglio e spenderci soldi? Che travaglio? La bomba è sopra, ragazzi, ci vuole il capo e basta. E lui sta andando, che travaglio deve fare? Cappa. Già ne avrà anche lui di capo, questo. Non lo so, da lui. Ma magari se vuole mettere una cosa così, fa lo stesso, ma... già va, piano piano. Ma tu tutto c'hai su ancora piantato, Natali. Non c'è problema per su, è qua, ma possiamo spostare la roba persona e metterlo dove devo andare a abitare io. Cavolo, lì già ci si può sbizzarrire, mina, cavolo, dove eri prima? Oh, vedi come sto, che cosa tutto ci puoi fare. Infatti, io quello che mi rompe le scatole qua, che non sento, perché quello di vicino arrivo forte, se non la tolgo fuori dal tetto, è una bomba questa antenna, non te la guardare così. Infatti è quello che stavo dicendo, cioè senza spenderci molti soldi, se per il momento va bene quella, mettici quella e ciccia, poi quando ti trasferisci hai voglia gatte a arrivare forte da tutte le parti. Infatti, se mi si fa proprio, adesso la prima cosa mi ha detto la come si chiama? Perché sporta, non è neanche dritta questa antenna, tu quando la vedi ti metti a ridere. Se riesco a drizzare questa strada qui, la metto la dritta, poi ci posso mettere un tubo e metterla un po' più in alto, almeno fino alla punta al tubo dal tetto. Sì, qui c'è l'altro. Perché ci mancano 2-3 metri la fino alla punta lì. È proprio chiusa l'antenna. Allora, se ti manca così poco, una prolunga o qualcosa, già si riesce a trovare. Infatti, prima di tutto devo cercare di abbassare l'antenna, di metterla a vista, e poi non c'è problema per quello. Positivo, dai, già va bene, con qualche uccia già si riesce a risolverla la cosa. Vabbè, dai, di saluto che mi è entrata la 50, ci sentiamo alle prossime, dai, buona domenica a tutti, fate della buona. Positivo Natali, intanto adesso sto chiudendo anch'io, io che devo andare anch'io fuori a dare una mano, ci sentiamo, dai, passatela bene, anche tu Natali, e salutoni al QRA, avanti con voi. Ciao Natali, ce la risentiamo, cappa. Se stai andando Giuseppe? Beh, in cucina dare un colpo di mano, perché che ora è? Mezzogiorno e 10, adesso cominciamo a organizzare un po' di cosa, dai, così almeno alla una, se ce la facciamo oggi, pranziamo in orario. Dopo c'è il Gran Premio del Bahrain, vediamo cosa succede. A che ora inizia? Anto che comincio a sintonizzare un po' di roba. Penso verso le 2 dovrebbe cominciare, se non mi ricordo male. È positivo, dai. Ci sentiamo Anto. Se coincide, dai, ci sentiamo questa sera. Passatela bene. Salutoni a tutti giù e io me ne vado in quel ritiro. Ciao Anto. Ciao Giuseppe, ci sentiamo. Attenzione sul 10. Come? Via Capri, buongiorno. Come sei, Luca? Va bene? Sì, benissimo. E io? Com'è la radio? Robotica rimane, ho troppo amplificata. Sì, con la scala, sì, è la radio perfetta. Senza essere robotica amplificata, no, ho troppo amplificata, satura, va bene così? Perfetto, ero sul 5, ho beccato lì qualcuno, poi finalmente parlano e poi non si sente più nessuno. Sto cercando quell'indirizzo lì, perché anche tu vuoi essere buono, ma forse è stato appuntato in un come si chiama di non so, non conosce della cosa che sono lì. Perfetto, ma vediamo un po' cosa ne esce fuori. Sì, già si troveranno, ma la verità ne ho visto tanti su internet, però con quale garanzia? Qual è il problema? Infatti c'è scritto sì, funzionanti, ma la garanzia è, come si dice, visto e acquistato, come viene scritto, o una formula del genere. Però qualcuno che ti dà un po' di garanzia, ecco, tutto lì. Quindi è un nuovo queste sono le formule giuste, diciamo, per da, giustamente per avere la garanzia, la cosa migliore, ma speriamo che vada tutto in porto. Non c'è nessuno oggi, no? E a Claudio non l'hai sentito? A Claudio, ho sentito che ieri non stava tanto bene, a vedere come stava oggi. Non l'ho sentito, però che c'era che un po' la cervicale, anche io molte volte, capito, insomma, cioè non ho sentito niente a Claudio, però nunca, non avrei, ecco, l'ha inteso, no? Magari, non lo so, lo cercherà, non so, va bene, mi sera, ho parlato con Gianni, un po' sui Sandro, capito, e adesso in un periodo la gente sana non ce n'è più. E beh, giustamente sono anche male di stagione, alla fine devi mettere in conto anche quello, era un po' tutto, ma speriamo che non sia niente di grave. È già avuto la cervicale, ma lo sanno, ti proprio ti mette KO con dolori non tanto simpatici. E infatti, io adesso te lo vedo questo facendo, ne devo trovare più due cartalina, sto temendo a mandarci quelle facciate davanti a cromarle, sono entrato a sbatterarne la targhettina, però bisogna che li affidi a gente sicura, perché lo voglio cromare, capito, per ritrovarmi bene con gli apparati. Guarda, ho un amico che è un bravo carrozziere, provo a chiedere a lui che lavoro alla fine dovrebbe fare, proprio cromato nel vero senso della parola. Sì, no, proprio della cromatura, come si deve, parecchi di cromo, li metto tutti a posto, adesso appena c'ho modo e dalla valle faccio dei problemi, ma non si può, non so, capito, un uomo che per voi a capire, e me l'ha detto, già se si fa questa roba si fa, hai capito, non ne può fare, capito, aveva fatto l'altra volta una modifica, una radio, perché il microfono si pese la cosa, capito, si fa, ma chiacchierone, la voglio perfetta, con la verniciatura di continuo, il pannello, la cromatura, capito, deve essere, ma Claudio lo farebbe perché Claudio ci tiene a questi lucidi per usarsi, io anche io adesso, invece di comprarne altri, mi restavo quelli che ci ho preso. Ah, quella che è una bella sistemazione. Solo il problema se secondo quello che devi cromare o sistemare, se ci sono delle iscritte, quello è un problema recuperarle. Catalina, solo che ho fatto un po' di quell'autoradio, c'è se fa una ricerca che abbia la fortuna di recuperarlo, giustamente se ancora le scatole sono avanzate, bisogna vedere quanto devi frugare, cioè veramente dovresti andare in soffitta così dove ci sono gli accantonamenti delle cose non utilizzabili. Settimana ci fai un salto lì e vedi un po' se riesci a beccarlo. Comunque provo anche a fare una ricerca a vedere se si trova. Uno cosa devi digitare? Apparato CD Capri 2, così proprio Capri 2. Adesso mi sono alzato un attimino che ho il computer portatile di mio fratello e provo a vedere e provo a vedere se riesco a beccarlo, vediamo un po'. Sai, ma non mi sentite? Ma è difficile, tutti questi le cose le ho sempre. Hola, attenzione, binario 10, brecco. Digito così, Capri 2, vediamo un po'. Buongiorno, se senti di Gombo. E chi è? Buongiorno. Buongiorno Antonio, sono un capo da Città Mercato, si da Piandanna, sempre breccando, non lasciate un attimo di bianco. Sinceramente non ti ho sentito nulla, comunque buongiorno Città Mercato, ben sentito. Danni so che Città Mercato. Sono a Piandanna adesso, dai, sono arrivato. Io da Città Mercato breccando, non riuscivo a entrare. Sicuramente il segnale tu era abbastanza basso, una zona non tanto propensa per noi. Comunque sei in compagnia di Capri 2 da Muroso. Qua se l'ascolti a Gianni Doppio Rum, Capri. Allora sarei bianco, cosa non l'ascolti a 9.30 qua? Oh no, buongiorno qua, come stai? Sto benissimo. Perfetto, sono contento. Ho sentito che non parli tanto bene. No, la verità, no, non l'ho sentito. Se non l'avrei fatto entrare. Lo sento. Cavagara, ciao Claudio. Antone, è difficile che io arrivi in basso, l'ho visto. Almeno di radio mi ascolta. Se non di segnale di radio mi ascolta. È il bianco che lo lasciate. Siete troppo chiacchieroni. Punto. Gianni, più non può suonare poi, non lo accanto. Sì, Gianni, guarda se riesci a copiarlo a Capri 2, lui non ti sente. E adesso perché sono sotto l'istituto di Piandale, sono in un fosso, è normale non mi senta, sono avanti al palazzo. Bravo, là, ci sentiamo, buona domenica a tutti, io sono arrivato a fare il mio dovere, non ve la prendete, però io parlo in faccia, dico le cose come stanno. Ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao, 9.30 qua, comunque non c'è problema, non ti preoccupare. Ciao Carlo, allora lì, tutto c'è quello passato. Ui, sono andato a lavoro e non ne sono rientrato, sono capito già. Poi poi c'è un'ausia, il capogiro, capito? Sì, perché fino a lui ti sdoppiaccia la vista. Provo a metterti lì otto il trauma nel collo, che te lo ti scalda la parte e riesce magari a farti passare il dolore. Prova a lui mettertelo nel collo, perché quello gli fa molto bene, sia lì otto il trauma che l'altro, l'aso, però il mio otto il trauma è ancora lì. Adesso provo a metterlo, mi pare che ce l'ho, ma l'avevamo già là, adesso provo a mettermelo, grazie, già, ci sentiamo dopo, là. Ciao Gianni, capri 2, ciao anche Antonello. Mi sto ascoltando, ma non sono in netta forma, là. Ciao, Cla, buona domenica a tutti, ciao. Ciao già, scusami se non ti ho sentito, ma non ti sentivo per niente. Avanti, Capri. Sì, no, ma adesso qua c'è mia moglie, ma di sei giorni. Forse anche il tempo sono un po' strano e niente, io è un periodo che diciamo ci ho passato l'inverno, però sono le reumatici della moto, come mamma mia ragazzi, della pompa trovato, poi mi sono dovuto alzare perché si è scaricata la batteria e adesso mi sto ricollegando. Sì, è uscita già l'immagine, aspetta che lo sto riavviando di nuovo, guarda lì ho il computer, ti giuro, guarda, è più forte di me. Vediamo un po' se riesco a ricollegarmi di nuovo. Sì, io non ho il computer, non ne ho qui, non ne ho, quello l'ho fatto più giù, era anche a me da non mancare, dove di 30 euro non li ho fatto arrivare. L'immagine mi è uscita, aspetta che abbasso un attimo. Abbasso, avevo messo troppo forte. Abbassato, adesso va bene così, scusatemi. Buongiorno, Falchi, ben sentito. È troppo forte, Antonio, abbassalo troppo. Ma forte di amplificazione, non di radio, di segnale. Amplificato, sei troppo amplificato, sì. Oh, non ho toccato nulla. No, non lo capisco, è sempre normale, guarda se va bene così, Falchè. Ah, sto scherzando, vai bene, vai bene. Ah, mi ha fatto ritoccare. Come a dirlo? Allora, se via Capri 2, dice Abidì. Sei in compagnia di Claudio che è a riposo e Capri 2 da Muros. Ciao Capri 2, ben ascoltato. L'immagine è abbastanza vecchiotto, è come apparato, però è bellino con questi pulsantini strani. E questo ce l'ha messo così in bella vista. Adesso ho digitato vendita, l'ha messo su eBay, ma non me l'ha fatto vedere. Vediamo un po' chi riesco a trovarlo, quest'altro furmo artigianale, vediamo un po'. TV su eBay, vediamo un po'. Se riesco a trovarlo, te lo dico subito. Ok, va controllo a dire. Io non ci sono mai riuscito. Sono anni, non ci sono mai, io ce l'ho in corso, c'è il manuale di servizio, basta, io mi fotografia a loro. Adesso che ho trovato un indice, tutti i forum, un indice con tutti gli apparati da A alla Z, Citizen, Cobra, Colt, CTE, vediamo un po', qui SBE come hai detto, ABCD, vediamo un po' Galaxy, vediamo se riesco a trovarlo, ce ne sono tantissime, Icom, è una marea. vediamo un po' se riesco a trovare questo USB e lo dico subito, un attimo di pazienza. Se all'epoca a Sassari li vendeva, come si chiama, quindi una scarpa, praticamente fiori, scarpa, scarpa, di bianca, non mi sembra, proprio la favorita, che lo ha portato, siccome affascinato dalla campanina sempre, no? E si assomiglia molto, deciso, quello è quello, so che quello della Cinque Canali, poi ce n'erano altri, molto, mi ha dato benissimo, un giorno che poi quando ero a casa mi ha dato che molte volte in quei canali che avevano si modulava adesso stavo stereo, però poi nella mia mentalità sono di 23 me li avevo comprati, allora diciamo che si poteva essere a lì perché non ho più la spina. Adesso ho trovato il manuale che costa 15 euro e bisogna ordinarlo dall'America, per adesso solo il manuale ho beccato, vediamo un po' se riesco a trovarne qualche altra cosa. Mi sembra molto difficile, c'è tante di queste cose, però proprio questo cable, solo la foto fa vedere tutte le caratteristiche, che è degli anni 70, però in vendita mi sa che è abbastanza introvabile. Digitato SB microfono laboratorio. Pure così mi ha dato lui e mi ha ripetuto già parecchi giorni, ma è il tempo forse. A dove riprendi? No, sto cercando, c'è un sacco di microfoni, però ancora non, vediamo un po', sto trovato il 600 manuale, vediamo un po', e faccio sapere. Comunque, buon appetito, Cla, buona guarigione, ci sentiamo più tardi se coincide. Vabbè, quello manuale, qua confermi che c'è il pulsantino rosso. Esatto, la posta uscita, però ancora il manuale non... No, ancora non sono riuscito a trovarlo, sto cercando sempre. Non c'è nessun manuale, mi esce sempre questo SD Capri 2 che sembra di quelle vecchie radio degli anni 60 con questi pulsantini, una luce blu che c'è scritto riceve e l'altro trasmetti, squelce il volume con le scritte tutte blu, produzione California, anno 1970, con due punti di domanda, dovremmo essere lì, e niente, no, non dice altro, no, non riesco a trovare altro, in questo link sono elencati 5 modelli in cui 3 con immagine, 0 con schemi, collezionista di Alberto Sanna, no, sì, Alberto Sanna a Alenso, vediamo un po' se visito questo, cosa mi esce, però Radio Museo, ecco, sì, ce n'è poca di roba, Dio mio, ma però purtroppo in vendita non ce n'è, c'è un bel po' di apparecchiature, ecco, sono entrato proprio nel museo di questo tipo, però in vendita zero. Ma parliamo, non diluviamo, ha un saccaccio di roba, guarda, è impressionante, radio a valvole, microfoni stranissimi, Dio mio. Ce n'è di roba, anche il Capri 2 c'è, bello perfetto, però non è... a parte la collezione di questa radio, queste immagini sono state inviate al modello corrispondente Alberto Sanna. Quindi è un bel po', da vedere 255, vediamo un po', Radio Collection, qui sopra trovi parte della collezione di radio e altri apparecchi di Alberto Sanna, Alonso, collezione Paravi Paravà. È un tipo abbastanza grande di età, però, ecco, Spagna, è spagnolo il tipo, con una faccia abbastanza seria, giustamente per la sua collezione, orca miseria se ne ha, con tutti i datati, orca nel radio, mobile VHF del 1969, manda altra, c'è un sacco di roba, però in vendita niente, No, di questa roba capito, proprio non ce n'è. No, no, assolutamente no. Non ti dà tantissime altre cose, ma proprio lo schema di quel modello niente da fare. Sono tantissime altre cose che poi da una cosa che figi che te ne manda in altre, però non ci n'è. Io nel frattempo continuo a cercare. Avanti, doppio. Stai cercando, no, stavo cercando a Capri 2 il Capri 2 direttamente l'apparato, se c'era qualcosa in vendita, ma ci sono un sacco di foto, la maggior parte sono tutti da collezione, però in vendita assolutamente no. E poi uno schema di un microfono che gli serviva lui sicuramente per ripararlo, ma non ho trovato nient'altro. Sente che rimane più potente, però ti sentivo leggermente saturo come amplificazione, mi ha dato questa impressione, sentivo secondo me meglio prima che tu toccasse qualcosa nel Galaxy, corrigimi se sbaglio. È compresso, non è saturo, è la compressione che c'ha, dai, non gli ho toccato nulla al Galaxy, dai, cerca di capire a me. Allora dai, no vabbè, io ti ho detto così, ma è strano, se secondo me sento qualcosa che tra virgolette non va, che si può giustamente sistemare, lo dico senza problemi, ecco, niente di particolare, come non detto, dai, la biscia mia. Se vai da te già ti ha poco compreso, come si? Andale, comunque già va bene, perché a metà 44 segnali avanti, capi 2. Come mi ascolti, da qui sono su al quadrato, cambio. Adesso è a fondo scaccia, la grande adesso. E così si muove, non come grande, ma mi porta la lancetta fuori della scala, che mi fa fare lo switch. Anche la tua non è segnale buona, anche la radio è bella amplificata. La radio stai usando, che microfono stai usando, capito? Fai diciamo delle abbinazioni giuste, va bene. Se vuoi vedere la mia, già cos'è? Troppo amplificata o va bene? Mi ascolti bene? È stata chiara, Antone, forte e chiaro, no? Non è troppo amplificata né nulla. Kappa e Kappa di Rogero. Va bene, qui la signora mi chiama che è pronta a mangiare, è quasi l'una meno 10. Va bene, se coincide. Dopo la carica, se ci siete, ci sentiamo. Sì, è stato io, fa poco. vado. No, andiamo presto presto la domenica, noi andiamo su 1:30, fra un po' vado e continuo la cottura. Ciao a te, buona carica e buone cose, là. Comunque il problema è che posso dare 5 watt di ingresso e ne ho dato 10, per quello che risultava un po' sciatto, là. Perfetto, no, perché giustamente abituato a sentirti bene, perché sei sempre uscito bene senza nessuna imperfezione, per quello te l'ho voluto dire così, anche per te a scopo informativo, no? Intanto i controlli ci vogliono per ovviare a questi piccoli disguidi, magneti particolare, ti sentiva molto meglio prima, pulito, tranquillo, con quell'eco leggero che non disturba, va anche bene. E dunque per tenere sempre gli standard di ascolto, te l'ho detto per quel motivo. Va bene, apriti anche a te, Gianni Caprirue, se nel caso ci stiamo più tardi, a Gianni Doppio Ruma che è in ascolto, dai, apriti tra tutti a più tardi. Ehi, dai, ci sentiamo, avanti Caprirue, tu a mangiare, non ci devi andare, che ti fa male mangiare troppo. fermo. Quindi è così. È così, è così. Secondo me è stata la cosa più ben fatta, perché poi tocca uno, tocca l'altro, se non mi cavi più. Invece lo prende uno e uno lo fa come si deve e via. No, non glielo ho già detto di mettere tutto quello che ci vuole, poi l'ho fatto. Di persona non lo conosco, ma conoscevo il padre che è morto, era un grandissimo radioamatore, quindi non ci sono problemi. Raga, però io con Roberto ci ho parlato una volta, era Osino e lui era accorso a Ottana. Si arriva con un V5 da Osino qua. E io ci ho parlato un sacco di volte, è Iglesias, no, non c'è problema. Ci arrivo anche da qua, va alle 27. Parlavo con chi da Cidro, quindi col padre ci sentivamo in diretta, perciò non è un problema, ma non volevo arrivare a lui, capito? Non volevo arrivare, però, perché mi costa, eh. Roberto, le cose te le fa fatte bene, però ti costa, eh. Quindi, non me la fatti niente. Tanto diciamo che quel lineare non mi è costato niente. Quello che mi è costato la radio, e quindi lo mettiamo a posto, è nuovo nuovo, così lo usiamo. Ma infatti qua per chiuderti il problema è migliorare la mano, lo fa bene, dito di problema una volta per tutte e ti va bene e sei contento che funziona. Fatta con lavoro, quindi devo farlo io, eh. Ci sentiamo dopo.